Capitolo 27. La mattina seguente, del tutto inaspettata, giunse la seguente lettera di Isabella. Bath, aprile, eccetera, eccetera. Mia carissima Catherine, ho ricevuto le tue due care lettere con la più grande gioia e devo porgerti un migliaio di scuse per non averti risposto prima. Mi vergogno terribilmente della mia pigrizia, ma in questo posto orribile non si trova il tempo per fare niente. Quasi ogni giorno, da quando hai lasciato Bath, ho preso sempre in mano la penna per incominciare una lettera per te, ma sempre qualche sciocco imprevisto mi ha impedito di scriverti. Ti prego, scrivimi presto al mio indirizzo di casa. Grazie a Dio, lasciamo questo posto abominevole domani. Da quando sei partita non sono più riuscita a divertirmi. La polvere aumenta di giorno in giorno e tutti quelli ai quali voglio bene non sono più qui. Credo che se potessi vederti non mi importerebbe del resto, perché tu mi sei più cara di chiunque altro. Sono preoccupata per il tuo caro fratello, dato che non ho avuto sue notizie da quando è andato a Oxford e temo vi sia stato qualche malinteso. I tuoi buoni uffici sistemeranno tutto. È l'unico uomo che abbia mai amato e che mai potrò amare, e sono certa che tu lo convincerai di questo. Comincia a uscire la nuova moda di primavera e i cappelli sono più orribili che tu possa immaginare. Spero che tu ti diverta, ma temo che non pensi a me. Non dirò tutto quello che potrei dire della famiglia che ti ospita perché non voglio essere meschina o metterti contro coloro che stimi, ma è molto difficile sapere di chi fidarsi. E i giovanotti non sanno mai quello che vogliono per 2 giorni di seguito. Mi rallegro di comunicarti che il giovanotto che più detesto tra tutti gli altri ha lasciato Bath. Capirai da questa mia descrizione che mi riferisco al capitano Tilney, che, come ricorderai, già mostrava una straordinaria tendenza a seguirmi e a tormentarmi prima che tu te ne andassi. In seguito è peggiorato e è diventato praticamente la mia ombra. Molte ragazze avrebbero potuto cascarci perché le sue attenzioni erano inimmaginabili, ma io conosco troppo bene l'incostanza del sesso forte. Se n'è andato 2 giorni fa al suo reggimento e spero sentitamente che non mi tormenterà più. È il più gran bell'imbusto che io abbia mai incontrato ed è straordinariamente antipatico. Durante gli ultimi 2 giorni si è appiccicato a Charlotte Davis. Mi hanno fatto pena i suoi gusti, ma non l'ho degnato della minima attenzione. L'ultima volta che ci siamo incontrati è stato in Bath Street e io mi sono infilata immediatamente in un negozio in modo che non potesse rivolgermi la parola. Non l'ho neppure degnato di uno sguardo. Poi è andato alla Pump Room, ma non l'avrei seguito per tutto l'oro del mondo. Che contrasto tra lui e tuo fratello. Ti prego, mandami notizie di quest'ultimo. Sono davvero preoccupata per lui. Preoccupatissima. Sembrava così infelice quando è partito e aveva un raffreddore o qualcosa del genere che lo metteva di cattivo umore. Gli scriverei io stessa, ma non so dove ho messo il suo indirizzo e, come ti ho già accennato, temo che qualcosa nella mia condotta lo abbia offeso. Ti prego, spiegagli tutto in modo che si rassereni. O se ancora ha qualche dubbio, che mi scriva 2 righe o che venga a farmi visita a Pulteney la prossima volta che sarà in città. E tutto si accomoderà. Non sono stata alle sale da secoli e nemmeno a teatro, tranne ieri sera quando ci sono andata con gli Hodes a vedere una commedia a metà prezzo. Mi hanno tormentato finché ho dovuto cedere ed ero ben decisa a non dare loro occasione di dire che mi ero chiusa in casa perché Tilney se n'era andato. Per caso ci siamo seduti vicino ai Mitchell, che hanno finto di essere molto sorpresi di vedermi lì. Conosco il loro livore. Prima non sapevano neppure essere un po' cortesi e ora fanno i grandi amici, ma non sono così sciocca da farmi ingannare da loro. Conosci il mio caratterino. Ann Mitchell ha tentato di mettersi un turbante simile al mio, come quello che avevo messo la settimana prima al concerto. Ma il risultato è stato catastrofico. Sarà che ho un viso così strano, ma a me donava, credo. Almeno questo è quanto mi disse allora Tilney, e disse che tutti gli occhi erano su di me. Ma è l'ultimo uomo al mondo al quale crederei. Ora mi vesto solo di viola. So che mi sta malissimo, ma non importa, è il colore preferito del tuo caro fratello. Non perdere tempo, mia carissima, dolcissima Catherine, scrivi presto a lui e a me, che sono sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Degli artifici così forzati e superficiali non poterono trarre in inganno neppure Catherine. Le inconsistenze, le contraddizioni, la falsità della lettera la colpirono fin dall'inizio. Si vergognava per Isabella e si vergognava di averle potuto voler bene. Le sue dichiarazioni di affetto erano ora disgustose quanto le scuse erano vuote e impudenti, e le sue richieste impossibili. Scrivere a James da parte sua, no. James non l'avrebbe mai più sentita nominare Isabella. Quando Harry arrivò a Woodston, comunicò a lui e a Eleanor che il loro fratello era salvo. Si congratulò con loro sinceramente e lesse ad alta voce i brani più importanti della lettera di Isabella con forte indignazione. Quando l'ebbe finita, e con ciò basta con Isabella, esclamò, e con tutta la nostra amicizia, deve credermi un idiota o non mi avrebbe scritto così. Ma forse questo è servito a far conoscere a me il suo carattere meglio di quanto lei conosca il mio. Capisco quello che cercava di fare, è una civetta vanitosa e i suoi trucchi non hanno funzionato. Credo che non le sia mai importato niente né di James né di me e vorrei non averla mai conosciuta. E presto sarà come se non l'aveste mai conosciuta, disse Harry. C'è solo una cosa che non riesco a capire. Vedo che aveva delle mire sul capitano Tilney, ma non hanno avuto successo. Non capisco che cosa ha avuto in mente il capitano Tilney per tutto questo tempo. Perché le ha dedicato attenzioni tali da farla litigare con mio fratello per poi tirarsi indietro in fretta? Ho ben poco da dire circa i moventi di Frederick, quali credo siano stati. Anche lui la sua vanità, come la signorina Thorpe. E la differenza principale è che, essendo più intelligente, non ha ancora fatto del male a se stesso. Se l'effetto del suo comportamento non lo giustifica davanti a voi, faremo meglio a non cercarne la causa. Allora voi credete che non gli sia mai importato davvero di lei? Ne sono convinto. E ha soltanto finto che fosse così, per il gusto di seminare discordia. Harry chinò il capo e assentì. Ebbene, allora devo dire che non mi piace affatto, benché la cosa sia finita così bene per noi, non mi piace affatto. In questo caso non è stato fatto un gran danno, perché non credo che Isabella abbia un cuore che possa rimanere ferito, ma supponete che l'avesse fatta seriamente innamorare di lui. Ma prima dobbiamo supporre che Isabella abbia un cuore che può rimanere ferito. Che sia di conseguenza una persona molto diversa, in questo caso sarebbe stata trattata in modo molto diverso. È giustissimo che voi prendiate le parti di vostro fratello. E se voi prendeste quelle del vostro, la delusione della signorina Thorpe non vi addolorerebbe molto, ma il vostro animo è improntato a un principio innato di integrità generale, quindi non è accessibile ai freddi ragionamenti della parzialità familiare o a un desiderio di vendetta. Questo complimento eliminò qualsiasi amarezza. Frederick non poteva essere colpevole in modo imperdonabile quando Harry si rendeva così caro. Decise di non rispondere alla lettera di Isabella e cercò di non pensarci più. Capitolo 28. Poco dopo il generale si trovò costretto ad andare a Londra per una settimana. E lasciò Northanger rimpiangendo sinceramente che qualsiasi necessità dovesse privarlo anche solo di un'ora della compagnia della signorina Morland, e raccomandando ansiosamente ai figli, come loro fine precipuo durante la sua assenza, di procurarle ogni comodità e ogni divertimento possibile. La sua partenza dette a Catherine la prima prova sperimentale che una perdita può essere a volte un guadagno. L'allegria con cui ora passavano il tempo, la libertà di fare quello che volevano, le risate alle quali si abbandonavano, ogni pasto era un momento di riposo e di buon umore. Andavano dove volevano e quando volevano, gli orari, i piaceri, le fatiche dipendevano esclusivamente da loro. Tutto questo la rese ben consapevole delle limitazioni che la presenza del generale aveva imposto e quanto mai grata dell'attuale liberazione. Questa spensieratezza e queste gioie le facevano amare ogni giorno di più il luogo e le persone, e se non fosse stato per il timore che diventasse presto necessario lasciare il primo, e per la preoccupazione di non essere ugualmente ricambiata dalle seconde, lei in ogni istante di ogni giorno sarebbe stata perfettamente felice. Ma la sua visita durava ormai da quasi 4 settimane. Prima che il generale tornasse a casa, la quarta settimana sarebbe terminata e forse sarebbe sembrata un'intrusione, se fosse rimasta più a lungo. Questa considerazione la addolorava ogni volta che le veniva in mente e, ansiosa di togliersi questo peso dal cuore, presto decise di parlarne con Eleanor, di prospettarle la sua partenza e di lasciarsi guidare per il comportamento da tenere e dal modo in cui la sua proposta sarebbe stata accolta. Conscia che se si concedeva troppo tempo avrebbe avuto difficoltà a introdurre un argomento così spiacevole, colse la prima occasione quando, cioè, si trovò improvvisamente sola con Eleanor e quando quest'ultima era nel bel mezzo di un discorso di argomento completamente diverso, per per sollevare la questione della sua partenza. L'altra si dichiarò e si dimostrò molto addolorata. Aveva sperato di poter godere del piacere della sua compagnia per un periodo molto più lungo. Era stata tratta in inganno, forse dai suoi stessi desideri, e aveva immaginato che l'altra le avesse promesso una visita molto più lunga, e non poteva fare a meno di pensare che se i signori Morland avessero saputo quanto piacere le dava avere Catherine con sé, sarebbero stati troppo generosi per affrettarne il ritorno. Catherine spiegò: Oh, quanto a questo, papà e mamma non avevano nessuna fretta. Purché lei fosse felice, loro erano soddisfatti. E allora perché? Se poteva permettersi di chiederlo, aveva tanta fretta di lasciarli. Oh, perché era lì da tanto tempo? Bene, se usate queste parole non posso più insistere, se vi sembra proprio tanto tempo. Oh no, non è così. Se fosse per me, rimarrei con voi per un periodo altrettanto lungo. Quindi fu immediatamente stabilito che, finché le cose stavano così, non doveva nemmeno pensare a lasciarli. Dato che questo motivo di disagio era stato eliminato in modo così soddisfacente, la forza dell'altro ne risultava di conseguenza indebolita. La gentilezza, la sincerità dei modi di Eleanor, quando aveva insistito perché rimanesse, e lo sguardo soddisfatto di Harry, quando gli avevano detto che avevano deciso di prolungare la sua permanenza, erano prove talmente dolci dell'importanza che aveva per loro, da lasciarle solo quelle poche preoccupazioni senza cui la mente umana non sa stare. Quasi sempre credeva che Harry l'amasse e sempre che l'amassero il padre e la sorella e anche che desiderassero vederla entrare a far parte della famiglia. E dal momento che era convinta di tutto questo, i suoi dubbi e le sue ansie non erano che irritazioni passeggere. Harry non poté obbedire all'ingiunzione del padre di rimanere continuamente a Northanger a far compagnia alle signore durante la sua permanenza a Londra. I suoi impegni come vicario di Woodstone lo costrinsero a lasciarle il sabato per un paio di notti. La perdita non era ora quale era stata mentre il generale era a casa. Attenuava la loro allegria, ma non comprometteva la loro serenità. E le due ragazze, d'accordo circa le cose da fare insieme e sempre più amiche, scoprirono che bastavano tanto bene a se stesse che l'orologio aveva suonato le 11, un'ora piuttosto tarda, all'abbazia, quando lasciarono la sala da pranzo. Il giorno della partenza di Harry. Avevano appena salito le scale quando parve loro, per quanto lo spessore delle mura permettesse di giudicare, che una carrozza si stesse avvicinando alla porta, e un momento dopo portò la conferma di questo con il suono vigoroso del campanello. Passata la prima agitazione, provocata dalla sorpresa ed espressa in un santo cielo cosa può essere successo, Eleanor rapidamente si rese conto che doveva essere il fratello maggiore, il cui arrivo era spesso altrettanto improvviso, anche se non altrettanto inopportuno, e quindi si affrettò ad andargli incontro. Catherine se ne andò in camera sua, cercando di abituarsi all'idea che doveva approfondire la conoscenza con il capitano Tilney comunque, nonostante l'impressione sfavorevole che le aveva dato la sua condotta, e nonostante lui si ritenesse forse troppo distinto per accettare in casa una persona come lei. Si consolò pensando che almeno non dovevano incontrarsi in circostanze che avrebbero reso quell'incontro effettivamente doloroso. Confidava che egli non avrebbe mai parlato della signorina Thorpe. In effetti doveva vergognarsi del ruolo che aveva ricoperto e quindi quel pericolo non esisteva e finché evitava di nominare Bath, pensava che avrebbe potuto comportarsi con lui con la massima gentilezza. In simili riflessioni il tempo passava e tornava certamente a suo favore che Eleanor fosse tanto contenta di vederlo e avesse tante cose da dirgli, da lasciar passare quasi mezz'ora senza essere risalita. A un certo momento a Catherine sembrò di sentire il suo passo nel corridoio e si mise in ascolto per capire se sbagliava. Ma tutto era silenzio. Si era a malapena convinta comunque che la fantasia l'avesse tratta in errore. Quando il rumore di qualcosa che si muoveva vicino alla porta la fece sobbalzare. Pareva proprio che qualcuno stesse toccando lo stipite della porta e un attimo dopo un lieve movimento della maniglia dimostrò che doveva esserci una mano. Tremò un poco all'idea di qualcuno che si avvicinava con tanta cautela, ma decidendo di non farsi di nuovo sopraffare dal timore a causa di sciocche e false impressioni o fuorviare da un'immaginazione troppo fervida, si fece avanti con calma e aprì la porta. C'era Eleanor. Soltanto Eleanor. L'animo di Catherine comunque ne fu tranquillizzato solo per un attimo, poiché le guance di Eleanor erano pallide i suoi modi agitatissimi. Benché fosse evidente che voleva farsi avanti, sembrava facesse uno sforzo per entrare nella stanza e uno ancora maggiore per parlare una volta lì. Catherine, supponendo che il turbamento dell'altra fosse in qualche modo causato dal capitano Tilney, poté solo esprimere la propria partecipazione offrendole la sua silenziosa assistenza. La obbligò a sedersi, le strofinò le tempie con acqua di lavanda e si chinò su di lei con affettuosa sollecitudine. «Mia cara Catherine, tu non devi, davvero non devi?» furono le prime parole che Ilia non riuscì a pronunciare. «Sto bene, questa gentilezza mi sconvolge, è troppo, e ti porto un tale messaggio!» «Un messaggio per me? Oh, come posso dirtelo, come posso dirtelo?» Una nuova idea balenò ora nella mente di Catherine e, impallidendo quanto l'amica, esclamò: «È un messaggero da Woodstone!» «Ti sbagli, credimi!» replicò Eleanor, guardandola con infinita compassione. «Non è da Woodstone, è mio padre, in persona!» Menzionando quel nome, la voce le mancò e abbassò gli occhi a terra. Il suo inaspettato ritorno fu sufficiente perché Catherine sentisse un tuffo al cuore e per qualche istante non riuscì a immaginare che ci potesse essere qualcosa di peggio. Non rispose niente ed Eleanor, cercando di riprendersi e di parlare con calma, ma sempre con gli occhi abbassati, continuò: «Tu sei così buona e sono certa che non penserai male di me per la parte che mi tocca fare. Sono davvero un messaggero estremamente riluttante. Dopo quanto avevamo detto, dopo quello che avevamo appena deciso, con quanta gioia, con quanta gratitudine da parte mia circa il prolungamento della tua permanenza, come speravo, e per molte, molte settimane, come posso dirti che la tua gentilezza non verrà accettata e che la gioia che la tua compagnia ci ha dato finora sarà ripagata da... Oh, ma non posso rifugiarmi nelle parole. Mia cara Catherine, dobbiamo separarci. Mio padre si è ricordato di un impegno per cui tutta la famiglia dovrà partire lunedì. Andiamo per 15 giorni da Lord Longtown, vicino a Hereford. Spiegazioni e scuse sono ugualmente impossibili, non ci provo nemmeno. Mia cara Eleanor, esclamò Catherine, soffocando come poteva i propri sentimenti. No, no, non affliggerti così. Un impegno preso in un secondo tempo deve cadere davanti a uno preso in precedenza. Sono molto, molto spiacente che dobbiamo separarci così presto e anche così improvvisamente, ma non sono offesa, davvero non lo sono, lo sai. Oppure spero che verrai tu da me. Potrai venire a Fullerton quando ritornerai dalla visita a questo lord. Non sarà in mio potere, Catherine. Vieni quando puoi, allora. Eleanor non rispose, poiché i pensieri di Catherine ritornarono a qualcosa che la interessava più immediatamente, lei aggiunse, pensando ad alta voce: «Lunedì, così presto, lunedì, e andate tutti. Ebbene, sono certa che potrò comunque salutarvi, sai, non c'è bisogno che me ne vada prima di voi. Non angustiarti, Eleanor, posso benissimo andarmene lunedì. Che mio padre e mia madre non siano stati avvisati non ha alcuna importanza. Immagino che il generale mi farà accompagnare da un servitore fino a metà strada e sarò presto a Salisbury, che è a sole 9 miglia da casa.» «Ah, Catherine, se le cose stessero così, la situazione sarebbe un po' meno intollerabile, benché con queste ovvie attenzioni tu avresti ricevuto solo la metà di quello che ti è dovuto, ma come posso dirtelo? La tua partenza è fissata per domani mattina. E nemmeno l'ora è lasciata la tua scelta. La carrozza è già stata ordinata e sarà qui alle 7. E non ti sarà offerto nessun servitore.»